C'erano tettorelle, Napoli belle, fiori d'amore. C'erano tettorelle e tutti te d'amore. La piccolina di quelle, Napoli belle, fiori d'amore. La piccolina di quelle limita naviga, luna vita ridivice Napoli belle fiori di amore, luna vita ridivice l'anello si cascò. Ci giro lo cialun de Napoli belle fiori di amor. Ci giro lo cialun da vidi lu piscato. E tu piscatore dell'onda e belle fiori di amor. Tu piscatore dell'onda, ven a piscare con me. Cama cascato l'anello, Napoli belle fiori di amore. Cama cascato l'anello, di mille voi trovare. Si ti troverie Napoli belle fiori di amore. Si ti troverie piccola mi luna me. Ti dugno cento scute Napoli belle fiori di amore. Ti dugno cento scute una brutta recamata. Non voglio cento scute Napoli belle fiori di amore. Non voglio cento scute una brutta recamata. Ca voglio un vagino di amore Napoli belle fiori di amore. Ca voglio un vagino di amore, si mi lo do i dona. Vattin di brutto pacchino, si parole non dirà a me. Vattin di brutto pacchino, si parole non dirà a me. Ca sogno zitella di amore, Napoli belle fiori di amore. Cazzugno zitella di amore, mi devo maritare.